Le Marche online. Viaggio alla scoperta delle Marche, navigando su internet. Un programma a cura di Luca Lorenzetti. Buona giornata da Luca Lorenzetti in studio per questa quinta puntata delle Marche Online. Ben ritrovati a tutti dopo la pausa natalizia. Dunque oggi parliamo di news, di notizie reperibili su internet che riguardano la nostra regione, le Marche. Abbiamo in linea con noi Giancarlo Marescia, ideatore e promotore del progetto Ancona Line che abbiamo appena recensito. Salve Giancarlo. Ecco, salve a te, possiamo darci del tu e un saluto anche ai nostri cari amici e ascoltatori di Radio Tua Ponte 2. Bene, ti ringraziamo innanzitutto della disponibilità. Vorrei quindi subito chiederti come è nato questo progetto, da quali necessità e attualmente come si sviluppa. Dunque, devo parlare sempre io, insomma. Sì. Allora, è nato un po' per scommessa. In questo senso, viene fuori dalla branca praticamente di UACS, che sarebbe il sito non ufficiale dell'Ancona Calcio, ben più conosciuto soprattutto dagli sportivi. Che è successo? Sono arrivate delle richieste in questo sito, che parlava soltanto dell'Ancona Calcio, da distante come Germania, Svizzera in particolare, Australia addirittura, Sud America e Stati Uniti d'America, dove chiedevano gentilmente notizie anche sulla città. Nel senso che nel sito non ufficiale dell'Ancona Calcio venivano trattate esclusivamente notizie a carattere sportivo della serie nella quale medita l'Ancona. E il sito fece subito successo e tantissime le richieste affinché non venissero trattate anche notizie a carattere locali, regionali e soprattutto del capoluogo regionale, cioè di Ancona. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dall'inizio messo una paginetta, poi non tanto bella graficamente tra le altre cose, che l'abbiamo chiamata Ancona Line, cioè tutto quello che riguardava l'Ancona, non l'Ancona, Ancona la città. Come città, sì esatto. E da lì è iniziata questa paginetta che poi si è sviluppata, perché non tutti gli appassionati sportivi poi volevano chiaramente vedere notizie mescolate tra quelle dell'Ancona Calcio e quelle della città, e allora abbiamo deciso di staccare i due siti e così è nato praticamente Ancona Line. Dunque, come si sviluppa? Mi hai fatto una domanda doppia e ti rispondo subito. Ancona Line adesso diciamo che è molto seguito, soprattutto da fuori Italia, perché più che fuori Italia anche da fuori Ancona diciamo. Però soprattutto fuori Italia, perché ci sono parecchi migranti o per lavoro, oppure che hanno fatto famiglia fuori, oppure che lavorano e poi magari tornano dopo tanti mesi, come nel caso di alcuni addirittura amici del Minnesota che seguono molto molto da vicino, insomma, sia il sito dell'Ancona Calcio sia il sito Ancona Line. E ci fa piacere. Stavo dicendo che si è sviluppato e lì ci si trova tutte le notizie a livello di cronaca, non trattiamo politica perché è un pochino difficile e sarebbe poi da metterci alcuni redattori, certo, che trattassero l'argomento, il che a livello di amministrazione comunale diciamo poco o niente, salvo quanto ci sono, che ti posso dire, delle giunte, e allora vengono fuori dei risultati che noi, certo, pubblichiamo volentieri. Quindi Giancarlo, senti, soprattutto notizie di cronaca. Sì. E io vorrei sapere come ti documenti per questo lavoro che so che svolgi quotidianamente. Sì. E appunto quanto tempo ti prende nell'arco della giornata questa attività così utile. Dunque, le notizie, un giornale cui prendo in considerazione, diciamo, come una specie di che mi dà diciamo la possibilità di mettere le notizie al Corriere Adriatico in primis, e poi dopo le altre notizie vengono prese dal comune di Ancona a livello di comunicati, e poi ci sono vari enti come, non so, la regione, la provincia, che spesso e volentieri mi danno la possibilità, mandandomi dei comunicati, di poterli, benissimo, inserire online. Ecco, queste sono le fonti. Tra altre cose, ecco, volevo ricordare che è interessato a avere sempre delle notizie fresche, c'è anche il nuovo sito del comune di Ancona, nuovo che si sta rinnovando in questi giorni, che appunto trasmette direttamente online i comunicati che escono dal comune. Quindi io penso che sia una cosa piuttosto bella, un ottimo servizio, un po' di pubblicità anche sì. ai colleghi del comune di Ancona. Certo. E quindi mi dicevi quanto tempo occorre per realizzarlo quotidianamente? Dunque, quotidianamente io ci perdo per Ancona Line diciamo almeno un'oretta. Mm. Un'oretta quando le notizie sono scarne, perché poi bisogna andare a scegliere, è lì un po' il difficile, andare a scegliere su tutta la marea di notizie di cronaca che ci sono, quelle più certo. sostanziose, quelle che magari diciamo l'internauta da fuori Italia vuole sapere sulla sua città. Ecco. Ti facciamo i nostri complimenti e i migliori auguri di un buon lavoro. Ti ringraziamo per la disponibilità e ti salutiamo. Ecco, infatti, se ci fossero poi delle testate giornalistiche che magari vorrebbero fare, ma non hanno i mezzi, nel senso che non se ne intendono, eccetera, io sono a disposizione. Quindi bene. Vale sia per il Corriere Adriatico che per il resto del Carlino e che per il Messaggero. Abbiamo promosso il tuo appello. D'accordo. Ti ringraziamo, Giancarlo. Ci sentiamo e un saluto a tutti gli ascoltatori. E... Grazie. Posso dire, soprattutto forza Ancona. Grazie, a risentirci. Ciao a tutti, ciao. Avete ascoltato Le Marche Online. Viaggio alla scoperta delle Marche, navigando su internet. Musiche di Giacomo Caliolo, Raffaele Mazzei e Piero Trofa. Consulenza musicale Raffaele Mazzei. Un programma a cura di Luca Lorenzetti.